dimmi dove vuoi andare. Poi biondo! Allora! Ora! Ora le palle, questo mi sono appena ci ho buttato! Mi senti Natali? Via! Ora sta minchia! Ora! Adesso sì! Chi che stai uscendo adesso? Vedete se non fa bene contare, o non lo premi bene il PTT, Manuè. Forse non fa di contatto Vemmi, magari devi pulire il PTT. PTT, io guido la massa di Cristo, anche il PTT, Ma quando fa così ti temo, Manuè. Lui è stato stanco molto, Natali, molto, più molto che il mio storico. Per carità, non c'è nessuna frequenza. Ma cosa a voi che vi sia? Si chi c'è un canale dei mossi? No, io lo vedo che frisciano i vasi, si bruciano i ricordi, si bruciano i lareci e non entrano, per carità. E adesso mi prendo un malacchino di 1000 sicuramente e una cosa, ma fruscia. Isso che di chi vuoi? Io la Manuè. Stava alle 5 e mezza, fino alle 2 e mezza. Dio mio, cazzo, mi sto esaurendo questo. Chi c'è un travaglio che fischi non li conosci? Oh, fischi. Mai visto fischi in questo lavoro qua. A Milano lo stesso. Certo, a Milano. Certo, l'andare, Capodanno, Pasqua, Pasquetta. Sai fischia, riposo diventava una ranghita e blu. E beh, così deve essere. No, in teoria deve essere due riposi, zitto, in teoria. Però una settimana, secondo che servizi fai, va bene, ma per i servizi che facevo io, una ranghita ti macchiava, cosa riposavi? E che vuoi che ti dica, Manuè? Purtroppo di ritardi ne quando si lamenta nei secondi che ti permessi. Adesso fra un po' ci pensiamo solo a andare a fare servizio a fare servizio lì a Tortuga, a Sant'Agata. Se non c'è servizio a Lucio. L'ho fatto un mese l'anno scorso, io e l'altro collega, in tre eravamo. Un mese, poi basta. Per carità. Cazzo, era un casino, eravamo coglietti, ragazzi, vedi, per il casino. Mamma mia, fino alle 5 di mattina facendo casino. Non ti dico un casino di vazia lì. In questo villaggio. E chi su sì, Io sto già cenando, figurati che. Però non mi sento bene in questi giorni, sono tutto messo male. Oh, influenza, cioè. Natali. No, mi è venuto un dolore dove mi avevano operato all'ernia. Cazzo, gribelli sono, a forza di gruppe. Oh, lascia perdere. Mamma mia, lascia perdere. Cazzo, io ogni giorno sono ad lui, per carità, ma non è Irna, fosse accaduto Irna. Io ho tutto un altro dolore, tutta un'altra cosa. Sì, già lo so. Mamma mia, però l'Irna è fiano a te, sì. È anche brutta anche quella lì. Passato non sa cosa vuol dire il dolore. Sì, infatti. Proprio non lo sa, che non la auda, non lo sa cosa vuol dire. Ma se qua io ti dico una cosa, Matteo, la mattina mi alzo, ma lo sai i dolori che ho la mattina, quando mi alzo appena dal letto, lui lascia perdere, mi metto questa faccia per tenere un po' stretto nei fianchi, prima di andare a lavorare, poi quando scaldo un po' mi passa, non tanto però già mi passa, ma la mattina guarda, ce n'è da piangere. niente. Sì, non lo dire a me, sono nelle stesse condizioni. Sono qui a più di una vita così, non così c'è. E poi quando è stato tutto il tempo così, caldo, freddo, ancora bicio, ancora bicio, umidità, quando c'è umidità ancora bicio. Beh, Bonilli, buonasera. Poi Biondo. Beh, Trucchio, ciao Natalino. Ciao Tony, buonasera. Beh, Tony, tutto a posto, hai detto in ordine. Bravo, l'hai detto giusta, tutto a posto, niente in ordine. Va bene, era. L'importante è che c'è la salute, è la pizzeriola che va sempre. Quella sempre. Meno male, eh. Meno male che ti ho messo la mano in testa io, eh. E te, Natali. Ma perché mi stai riscatto? Troppo vicino all'armentatore, ragazzi. Allontano l'armentatore. Peggio, Così devo tenerlo. E così va bene, cattavuglia, sì. Via Germano. Adesso va bene, va a Natali. Dica. Niente, non riesco a trovare, aspetta, una stazione fissa, E cazzo, ti devi ricordare, tu compareggi, vedi, a voi ti andrò a comparare, ma con tu, una stazione fissa, ma cosa? Parli di lungo REM. Un pochettino. Sono troppo vicino alla baracchina, così riesco. Allora, scusa, c'è la recensione, non so, un altro altoparlante a fianco, è quello che innesca, capito? Vedi, c'è vicino. No, non ero vicino, solo il fatto di casino. Innesca, sì. Ho capito, mi tengo questa roba tu. Gira, gira. Ma cosa dipende a fare di là? Cosa mi spiega a fare, Tony? Non ne vale più la pena. Ma sì, cosa impegni di là? Metti gli altri fruscelli, vendi e non entrare nel manco. Ma non ne spenderei mai più soldi per niente per questa frequenza qua. Non per questa frequenza, ma neanche per le altre frequenze, a che non si va nulla. Fatto mai nessuno, vabbè. Vabbè, dai, tanto, accendo un po' che niente, qualche volta che accendo, non vedo nessuno, spengo subito. 2-3 secondi spengo, penso un po', poi sono spattuato, non c'è nessuno, spengo. Adesso esce, vedi che non vedo nessuno, invece c'è la terra, mi sono fermato. Allora, ti da via. Io non vedo manco in trending, ti via, che non mi sento, ma niente, beh. Scusa di un po'. E come mai, cosa c'è, la tua lì? Un dolore allucinante dopo mi hanno operato all'ernia e mi è venuto questo dolore, non posso stare a posto di brutto, insomma. L'ha detto io, barone del riservato, creatore, lei ma visto che vi dico la televisione, vi dico la rete sul canale 5, no, sulla gente, no. Cazzo, ma vai da un po' gaghiccio, no, che gli faccio, che era la televisione che andai di mare, no? Vettore, buonasera. Sì, buonasera. Cazzo, ed è assurdo che non me la funzionava nell'apparecchio, invece era un tasto inserito e non andava. Basta avere i paracchini semplici, vedrai che accende e sì, vabbè. Non ero più trattenne, quindi oggi l'ho rimesso in funzione. Capito, Natalia, cosa ti ho detto? Che cosa mi hai detto? Io sto cenando e sto ascoltando a voi. Ho detto, comunque, buona cena, ho detto, se sei fermato dal dottore, cosa potrebbe essere? Ce l'ho già ordinata, però non ci sono tutti. Oh, sentite, mi rubare anche tu, a Baggetti. Niente, io lunedì chiamo il CUP e vi faccio mettere per San Camillo. Diabetologo, il mio è stato in pensione prima del solito, la mazza gliene varia. Peggio di me sei diventato. Cacca, già già 2 mesi senza io. A me piace che mi chiamavo, mi devo fatto diabetologo, nulla. Adesso lo richiamo io al CUP e lo faccio cambiare. Anziché dare il centro, il casino, da, no, non sarà... Attempio, cazzo è stato scritto. Cosa, ma lo è? Attempio devi andare. No, a San Camillo, perché prima andavo di centro. Ah, è stato di un peso di stare in contatto a tempio, ma fai caso. No, io devo fare niente, ho esatto, rimettermi di metodo perché il mio sarà in pensione. Devo andare a fine marzo, invece se ne è andato prima, funziona solo per gli anni. Anche lo mio, se ne è andato prima di marzo, me l'hanno fatto già da gennaio me l'hanno fatto già che non c'erano posti. Adesso che chiamano loro. No. Ho chiesto a cosa, vedete? Di andare a San Camillo, ma neanche lì c'è posto. Rimaniamo senza di abitore, c'è già riallucci, che lo dica. E allora, bisogna rimanere a rigogliere. Sì, ma a me quel foglio che mi rinnova è per prendere tutto l'attrezzatura per la glicemia, perché ci vuole il foglio rinnovato, perché poi se scade aprire ciccia. Ma il tuo medico di famiglia. Mangiatelo. Perché a me mi ha dato un foglio la diabetologa per farmi il piano terapeutico il mio medico di famiglia. Ma chiedi non ne vado in bico. Vabbè, voi farò così, chiama per la dottoressa Ciccia. Cigomi. E tu? A lavoro stanotte. Ehi, dammi vuoi bene, ho fatto domani, ho fatto dalle 5 e mezza stamattina fino alle 2 e mezza. Adesso domani mattina alle 5 e mezza fino alle 2 e mezza. Poi faccio la notte. Poi faccio la notte lunedì. Andrà bene, poi cosa lo dico? Quanto in pensione, dai, cruci la banca di riposo. Anche pensione, cazzo faccio, sono guidizzate dei contributi. Io sono venuto a 40 per la pensione, proprio. Ma però ho lavorato la maggior parte a nero. Da ragazzino. E travaglio non veniva, assicurato non ti assicurava. Automaticamente mi dovisci che tutto, se no come fa a vivere? Ma c'è un casino, Riprendito, che la taglia sta mandicato. Grazie altrettanto a voi quando la farete. Già vi ascolto, dai, io ho già finito di cercare. Ah, io ho già finito lo stesso. Ho mangiato una pizza con salame piccante, un lavamano di salata con cipolle, pomodori e bresaola con limone. Ma noi, attenzione, vuole di mutande in ferro con le bruci. Cos'è lì? Ha pulito le mutande in ferro, sono le bruci. No, per quello già c'è da di piombo le mutande. Non ti ne bocce molti muti, no? Ma io roba molle non mi piace a me, Otto. Sempre roba dura mi piace. E fai per... Alla manco così che andai a drudiare e ci fuggi. A me non rimane niente, non esce fuori da nessuna parte. No, esce fuoco, esce. Sì, vabbè, già ci abbiamo anche l'estintore per quello. Dai, giù. Vabbè, dice Biglia Vugura Ganna. Poi salame piccante, o salsiccia piccante, c'è un boccione di vino e trovate io trovate là. No, vino non mi sta tirando adesso, la birra sì, birra fresca, croccante. Ma come non dico questa cosa io? Certo, fra un po' non ne so più da fare una macchina, mi devo prendere un pubino, Tony. Non ho capito cosa, ma ho detto, fra un po' non c'è più dentro quella macchina, mi devo prendere un pulmino. Lo so, devi fare due sportivi in uno, praticamente uno forte romano. Mi hanno detto l'altro giorno, ma lui, ma cazzo siamo un giocattolo, questa macchina seduto sopra. Che tra maniere di troppo, si muove poco, ingresso a me, diventa faccio villa e provate a ciccio. Io sto lavorando, Tony, mi muovo. Ma se mangi di troppo però! Cioè, giusto, cosa siamo mangiati? E tu non mi mangio questa cosa? Primo, secondo è frutta, dai! Dottore, tu è molto senza vedere Emanuele. No, non lo so, dall'altra volta che l'ha giù visto. Non so se è cresciuto, se ha allargato, boh. Sì, è allargato proprio. No, mi sa ristretto, no, ma tranquillo che mi sa ristretto. Sì, sì. Sicuri siamo, ma non lo so, no. La bilancia questa volta mi ha detto, meno male, signor Lai, che sta dimagrendo, ha visto l'occhio. Hanno detto, saliti una volta. No, quella è la prima. prima, adesso mi ha detto, meno male, signor Lai che sta dimagrendo a vista d'occhio, continui così. A me mi pare che sta noi quattro e accendi una buccia. Oh boh, ah, mi pare che ci sia la Kenny invece. Sì, infatti, Emanuele, da casa di Stella Cicciotello, non si adaggia più le volte qui. Senti, si lasci da giardi, tutti gli onghi, e trovi, e sono già entrati le volte. Otto, lo sa perché dice così Torino? Perché mi ha visto l'altro giorno con un po' di barbetta e sembra che ce la faccia un po' cicciottella. Invece no, se mi taglio la barba, sono pelle ossa. Non mi credi? Certo, non sarà tutto rincontrare, no, fa caso. E non mi credi, boh. Non ti conosce nessuno, Manuel. Mamma mia. Guarda che la macchina tua sta dicendo, cerca di rimanere, mi stai scoppiando le gomme. Le gomme già sono stesso a 2 e mezzo, dai, quando mi siedo non succede niente, non si ammassano neanche. Gli ammortizzatori neanche si sentono. E forza, se tu chiedi di cerchiare in terra, hai ragazzo un gioco in terra. Vabbè, di cerchiare già sono in terra, dai. Tu sì, avevi voluto sapere che mi avete sempre con Manuele Pavarini. Ah, è piccina. Anche mangia un po', la cito, fai, ti permette organico, mangia un po' di più. Natalino mi conosce prima di tutti, Natalino. Sì, non vi credi niente, non è che ti rimasi a Manuele, ma ti azzerimi. A chi proprio visto non lo dovevi dire. Pittina, la giuvito che era macromargo, la sa di. Infatti, la repuso la candela da dentro, non hai fatto la radiografia. Candela mi sono, era così. Ha diventato trasparente, è diventato. Mi ricordo guardando così, oh, Natali. Sì, ero preso, perché mi rammento. Sì, già se ne ricorda anche Torino, già mi ha visto anche Torino. Sì, quando ti ho cresciuto, era accettabile. Questo era accettabile. Era un figurino. Era già un figurino. Questo era. A te immagini, Manuel, sempre con te, curanimi. Ma se l'altra volta è venuta in macchina a prendermi un giorno che dovevo mandare la mia zia. Cazzo, a Giovanni non vi casiamo tutti e due la stessa macchina. Zecca, scusa, di la verità, cosa mi hai detto tu a me? Cazzo, non penso che ci sportello, Zecca, fai una cosa, quando me ne affidiami, muovono due un trasportello. Vai tu! Quando vuoi andare? Non andiamo! Vedati il microfono, che mi ha sentito un secondo! Il microfono è già in chili! Certo che andiamo per andiamo, bubù! Dai dai! Io, quando mi ha conosciuto Natalino, pesavo 45 kg quando mi ha conosciuto Natalino. Quando abbiamo iniziato a modulare che l'ho conosciuto, a parte che ci riconosceva molto prima quando l'aveva conosciuta Gianni, quindi più di 40 anni che mi conosce ed ero sempre magrolino. E pure Gianni, ma te si era magro pure lui. Vabbè, anche mangiamo. Gianni è magro, non è grasso. Ma Gianni solo la pancia riesce. Io, meno male, sì, come corporatura, sì, posso dire che sono un pochettino grosso, dai, un pochettino. Ma ieri, l'agno, quando eri giovanotto, la radiografia è vero, bisognava farti. E 45 kg pesavo, 45-48 kg. E io lo so, eri magro, ieri. Ma va, confronta prima, se lo doppio. Guarda che lui pesa 45 kg, soltanto il pollice del piede. E va, sì. Però quando era giovanotto era magro, era. Io l'ho conosciuto proprio, era magro. Andiamo, va, ne pesano doppio l'invece. Fammi 90 kg, va. Sì, magari, mi sono pesato 100 110, 115. Allora vi ha ragione io. Aspetta, dai dai, cosa avevo, qualche catturetta in manco? Sì, vabbè, dai, beh, deve alimentarsi anche il travaglietti, è un travaglio un po' così, se non si non mangia, si farà un fumo, me. È passato che tu mi ha detto, ma scusa lei, cosa faccio, va a buttare fuori? Così ti ha detto. E lui se no, faccio buttare dentro, ma scusa lei, il butta fuori, no, il butta dentro solo. Ma noi di la verità che se tu non mangi minimo 15 kg al giorno di tra carne e pane, ti dice non batte le mani. E io se la mangio pasta, io la ti ripeto, la pasta la mangio, se me la davo nel giorno la mangio nel giorno, mattina, pranzo e cena. Oh, e poi si muore 4 kg di spaghetti, mi fate un occhio, dovuto faccio, mi cos'è Natale? Poi prima faceva, era sportivo Emanuele, per quello che non ingrassava. Capito, faceva il salto del fatto. Sono passati un po' di anni, sono passati minimo 30 anni, 35 buoni buoni. Sì, a un grido. Uno quando è giovane fa un metabolismo più veloce e tutto. Invece tu ti sei rallentato e hai ingrassato, ma io suere dai, beve tutto, è piccina. Non puoi pretendere di rimanere magrolino. Come ti il fratello di mio cognato, eravamo da un po' che non ci vedevamo, minimo eravamo più di 10 anni che non ci vedevamo, perché lui mi conosceva da piccolo. Cazzo, ma cosa andare, buon padre a compressori. E poi da un po' come? Cazzo, ma non è mai da casa in mano all'armadio. A chi va? Ci pure manda a fondo, Emilio dovrà detto, quando era ma correntari era, come in te, ragno ragno, a me da come in te va, a chi per dai, no? Emilio sì, Emilio era magro, lo stesso. Aspetta Natali, ti sei sbagliato, hai detto, era come te, no? Come c'era prima Emanuele, Emanuele è forse il più grosso uno te lo fa detto. Io passo con un bel senza dirlo Emilio, però Emilio è ingrossato parecchio. Era ragno come Emanuele, quando era ragno Emanuele, era ragno puro Emilio, a chi con Emilio ci conosciamo 50 anni, su Martesi, eravamo a correntari. Emanuele prima era ragno, lo so, prima che ti crisi parlo io, e ti spiego perché, lui andava un certo qualcosa e gli faceva le sanguinacce. E poi la fai dei fatti in casa. Mamma mia. E ci faccio Emanuele, pura baba te. Lui, e le camicie tutti buccate di sigaretta. Mamma mia, la verità di buccato la ruda della moto di Gozo, di Caracchini. Per carità, hai non è accendiato due macchine, a me da vedere. E sta viaggiando dai sigaretta di Manzano. Cioè, per lui ha fatto il Morello con certe persone che non ha neanche permesso di dire certe cose. Certo, già se l'aveva mai se non viene fresco che si è attaccato con quello di concorso, con quello di sopra. Già l'ho conosciuto. Fortunato che dice, oh, io giuro. E ha detto, se non vuoi sbagliarci, dopo che avete messo, però ho pulito. Forse era meglio sbagliare la giusta che ci ha rimesso quella Alfa 33 Ivola, quella rossa bella. Già se l'aveva mai se il vino fresco a mettersi con lui. Ui. Adesso faccia l'anima sua, non c'è più. Ma poi quella macchina che prima aveva fatto? Cosa? Ce l'aveva in garage la macchina, e il motocarro ce l'aveva, che fine aveva fatto? Il motocarro ci aveva venduto solo il duco, che ne muso, e il duco non lo so. Lui aveva dopo quella Alfa 33 Imola rossa, che era incendiata, sempre sono andato l'Alfa 33, però per Donino pare che era. E anche chissà gli aveva fatto paura, e allora il motocarro. Tutti e due Alfa gli hanno bruciato, la prima e poi la seconda che aveva preso nuova di pacca, che cosa l'ha durato? Un paio mesi. Fece merito. Lui ha detto delle cose molto molto gravi sulla figlia di quella persona lì, ma la buffa che le ha viste lui le sotto scala, ma io 12 anni la figlia, ma mi permette di dire certe cose, io. Lui alla fine se ne aveva preso un'altra, che mi ricordo bene, però si aveva preso il garage in affitto, il via Grazia de Reda aveva preso il garage per tenere la macchina, e si aveva preso il motorino per andare a casa sua, e la macchina la teneva in garage. E poi che fine ha fatto? Scomparso anche il motorino? No, il motorino l'aveva venduto e si aveva preso questo motocarro, c'aveva anche questo motocarro che andava in campagna, ti ricordi che andava in campagna lui? Sì, quello lo so. Però non lo so dove è andato a finire, c'aveva sia la macchina che il motocarro. Ma la campagna sua era? La, sì, gliel'avevano data per piantarci le cose, non era la sua. Perché non ci vedi questa campagna, non sono venduto dei milioni. E comunque sono messi male, diciamo, tutte le figlie e il figlio non fa carità. Poi da fine ne hai fatto. Il figlio sì, già era già delinquente da bambino. Quando frequentavo io era già delinquente. Poi gli altri due no, sei che non ho fatto. Maria si prende la gatta, fa la dente, fa mattina la figliura. A chi lo marito manco si dice le denti, non gliela fece nulla. L'altra, la carità, forse l'altra la cosa, ma forse è quella che si salva. Ma l'altra ancora che era minorita, feotta, è diventata un fui, fea e redrone, la pagano corso, quindi un pacca di dai, me da niente. E poi chiamare Brumita. E adesso me da famiglia. E oggi mi amico per Andrea. Mi sarà molto. C'era un... Aspetta, come si può chiamare? La nuova l'idea dei bettini minori. L'hai provato? No, a Gine. Pedofilo. Non mi ci la paravano, pedofilo. Ecco come si andava, funziona solo vecchio. Poi si metteva la mugna. Grande età, vicio, grassoccio, e poi fare medicina andava a fare in coca. Lui, allora, ti spiego su, quando lui frequentava lì, no? Lui aveva già la melletta di 50 anni, fatti il conto. E se mi provava, figlio, fatti. Ti sto dicendo, ancora mi usava, ma gli ha molto. Eh sì, perché buono buono allora, io quei tipi mi sono anch'io. 30 per la ziccata, quindi fatto il conto, quindi un 90 anni, non sarebbe già molto. Allora, 80 anni non ce li ha, 80 anni no, però una settantina già ce li ha adesso, sei ancora vivo. E va bene, è mia, Emanuele, cosa si dice? Ma quando io frequentavo lì, che adesso 70 anni, non so vent'anni fa, è di più che frequentavamo noi là. Senti, la metti bene, io mi pare che non ero, sì, già ero sposato, però, ripeto, avrò avuto io, mi sono privato 24 anni, e penso un po', io penso prima di io, un altro 30 anni, fatto un corso. Sì, già tu eri già sposato, andavi anche con Rosalba, c'era Iva piccolino, Elsa lo stesso, era minori, e lui era già grande, lui, e io c'avevo... c'avevo io 20 anni neanche, 19 anni c'avevo quando frequentavo lì, e cosa aveva già una cinquantina d'anni. Stai parlando di 30 anni fa, Emanuele, quindi ne ha 80, cosa aveva 70 anni, ma oggi che l'hai? Vabbè, era grande, comunque già era grande. Allora, la cattura che da su, c'è una cia, ti per carità. Ma chi c'è rimasto qua? Tore, ci sì. Tore, farito. Io già ci sono. Sì, non so la tani che tu già ci sì. Tu conosciuto l'hai a Gavino, la tani? A chi Gavino? A te ne ho uno. Vino? A te ne ho uno. Non l'ho conosciuto, no. Emanuele ci andava che la moglie faceva salsiccio. Mamma mia, lui non arriverà una lì. No, il sciacquinaccio ti faceva. Andiamo a della patente che è nata dei senso per il magazzino. Sì, e che si è disorganizzato? Già si è attaccato un mezzo tranquillo. Coraccuccia, ma dopo, tu vuoi che dai, decidere di prendere una parata? prima volta con te. Ognuno che andava a ciapaetto con il bucano nei gomme. Infatti la moto la posteggia lontano, o la macchina. Lì la stella si faceva di spiriti. Ma era un pezzo lì che ti faceva di spiriti. Che si faccia la lampadina, andata un capo domino, e dici qua c'è la lampadina bruciata, e poi c'è buona, e fatelo come c'è la piazza. Non so quanto la dico, quindi lo faccio a vita, che ti va via in mano, per la cuccia, la piccia fronte. Ehi, ma c'è mano, un maracchino, una figliura, torni, vieni presto, perché è mappo. E io non posso venire, sono in tuta sportiva, che ero in tuta. E là c'è il pompugno. Vai, corretto, con la picchiriola in mano. I palazzi sono come questo, dove sono io, che quando parli si sente in tutto. Sono quei muri, quelli a pannelli. Chi è che vuole entrare? Perdona, hai detto, sono quei muri a pannelli. Sì, per fare il cazzo, riconosco, ma non è. Cazzo, ma un caso tu che caravana, ti ricordo quando stavo buccando a casa? Tutto, è un cemento vibrato, con un'ima, è un tutto che caravana. Cazzo, mezz'ora ma fa un buco. E non comincio ad alzare, c'è chi parte dal razzo, si faccia, però a buccare. Allora, tu pensa, non sono io per mettere quattro tassini, se mi sono andato già per tanto lungo, ho bruciato un trappano e sette punte. Cazzo, figurati. E non è un cemento armato, è a blocchetti di 10 trucchi di gravalla, ma tutti. E poi questi cazzo di pannelli sono quelli... anche lì in camera, in cameretta, lo stesso, a buccare, a mettere delle misurine, per carità. Lo so, Manuel, è un casino, purtroppo è così, lì è purtroppo. Anda bene, veda, oh già, rotto per un bicchiere che mi trattano da mandigare. Dai Manuel, come, già ci sentiamo, se ci vediamo ci beviamo un bel turistico, ci facciamo un bel panino, come dico io, una bella baguette. Ok, dai, stammi bene, ci sentiamo, saluti mia papara, ciao Natalino, sei d'ascolto, salutone alla 50, ci sentiamo. Buon proseguo, ciao ciao. Ciao Tony, buona cena con tutto, dai, cosa ha cambiato al centro. Ciao anche a Natalino, chiedo anche io che domani mi devo alzare alle 5:30. Ciao a Tore, se c'è ancora in ascolto, va bene, ciao a tutti. Cappa, riprendo io, ti saluti, dai. Ciao Tonino, ciao Manuele, anche sto chiudendo. E ciao Tore, se è all'ascolto, dai. Correti anche per me, grazie per le quattro chiacchiere. Ci sentiamo alle prossime. Ciao Natali, ciao, ciao, anche a Tore, se è all'ascolto, ciao, ciao. Attenzione 10 K, attenzione canale 10, canale 10 KK, attenzione canale 10, canale 10, cambio, cambio. Hola. Attenzione, copiato in tavola e tavola che si fa chiamata Blacco. Maglia cartofa. Attento, copiato in tavola, mangia cacciuffi. Hola, chicos. Quattro. Audio.